24 mattino. L'intervista. Ben ritrovati da Alessandro Milan alle 8:22 minuti. Voglio salutare per la nostra intervista di oggi l'onorevole Gregorio Fontana del Popolo della Libertà. Buongiorno onorevole. Buongiorno, buona festa della Repubblica a tutti. Un saluto particolare agli appartenenti alle forze armate che ben rappresentano il nostro paese. Perché di questo parliamo, onorevole. Lei è primo firmatario di una proposta di legge dal titolo Disposizioni concernenti l'associazione di interesse delle forze armate, che ieri sui giornali ha fatto molto discutere. Ha detto: guardate, con questa proposta di legge, dicono dall'opposizione, nella quale si vuole riconoscere quali sono le associazioni che hanno anche di ex belligeranti, che hanno diritto poi ai fondi del ministro della difesa. E in questa legge ci sono delle diciture talmente vaghe che potrebbe entrare di tutto, anche gli ex repubblichini, cioè quelli che hanno combattuto la Repubblica di Salò. Onorevole, si difenda dalle accuse. Ma per carità, guardi, ieri è stato il giorno della menzogna e della polemica, oggi è il giorno della verità. Peccato che oggi sui giornali queste cose non ci sono. Guardi, mai mi è passato dall'anticamera del cervello di voler equiparare o includere nelle associazioni che beneficiano di questi contributi statali le associazioni che fanno riferimento alla ex Repubblica Sociale. In questi giorni, come dicevamo, c'è stata una polemica strumentale fatta dalla opposizione, una vera e propria bugia che ha tentato di raccontare che si volevano equiparare le associazioni dei fascisti di Salò ai partigiani o le altre associazioni. Niente di più falso, perché proprio per evitare tutto ciò sulla legge non c'è scritto che c'è questa equiparazione, basta andarla a prendere. Sì, questo è vero. Sul sito internet e addirittura proprio per evitare questi problemi sulla legge c'è addirittura scritto chiaro che tutti i sodalizi che hanno l'obbligo di sostenere e difendere i valori della Costituzione a cui si ispira l'ordinamento. Quindi certo, i repubblichini di Salò di certo non difendevano la Costituzione, che ancora non c'era peraltro. E guardi, si è trattato di un grande equivoco. Se proprio ieri il presidente dell'associazione ebraica romana Pacifici, che in un primo tempo aveva manifestato le sue perplessità su questa legge, ha dichiarato, virgolettato, non c'è il timore che il progetto di legge in discussione alla Camera possa prevedere contributi per gli ex combattenti. Quindi c'è stato un grande abbaglio, cioè tutto nasce, questo equivoco, dal fatto che nel parlare di associazioni di ex belligeranti, cioè l'opposizione dice è una dizione talmente vaga che ci può rientrare di tutto, ecco, questo era il pericolo. Noi avevamo previsto, come le ho detto, che facessero riferimento alla Costituzione, e ripeto, io mi sento particolarmente anche offeso di questa accusa, proprio perché, come le ho detto, sul giudizio storico sul periodo della Repubblica Sociale è assolutamente negativo. E si tratta di uno dei periodi più orribili e drammatici dell'Italia, in cui si sono commessi persecuzioni e orribili delitti. Per questo mi sono sentito offeso anche a livello personale nel momento in cui si ascriveva una volontà attraverso questa legge di voler rivedere un giudizio storico che deve rimanere tale. Tra l'altro l'abbiamo anticipato, l'abbiamo sottratta, so che lei sta andando alle celebrazioni del 2 giugno, proprio oggi l'abbiamo chiamata, insomma, le celebrazioni della festa della Repubblica. Lei però, so che ieri abbiamo fatto una lunga chiacchierata, mi ha detto il timore in realtà è che è un altro, cioè che le associazioni, quelle più riconosciute, per esempio l'AMPI, quelle dei partigiani, non vogliano che si metta al becco nei soldi che diamo loro. Questa è un'accusa abbastanza. Questa proposta di legge che ripeto deve ancora passare al vaglio dell'Aula, certo, della Camera e del Senato, si vuole disciplinare meglio le modalità e i criteri di erogazione di questi fondi che già ci sono e vengono dati ogni anno in favore delle associazioni combattentistiche. Un milione e mezzo l'anno, mi pare. In concreto, in poche parole, se queste associazioni vogliono ricevere in un momento anche tra l'altro di difficoltà del bilancio dello Stato, quindi i soldi dei cittadini, se vogliono ricevere i soldi, devono avere determinati requisiti e dar conto con trasparenza attraverso i loro bilanci di quello che di come usano questi soldi, certo. E devono avere anche ordinamenti democratici, eccetera. Insomma, questa legge vuole mettere un po' di ordine in una giungla, in una situazione in cui oggi c'è un po' di confusione. Guardi, le associazioni d'arma e combattentistiche rappresentano uno straordinario patrimonio, non solo culturale per le tradizioni che portano, ma anche per una grande risorsa di buone energie che sono impegnate non solo, ripeto, nella continuazione di quello che sono le tradizioni, ma anche nella protezione civile. In caso però di dice, visto che gli diamo dei soldi, devono renderne conto in maniera trasparente. Ma è un criterio, penso che i cittadini, questi prendono i soldi dei cittadini, è giusto che ne rendano conto, ci mancherebbe, ma poi non penso che sia un problema, perché tutte queste associazioni fanno solamente cose positive. E dopodiché, insomma, lei, per concludere, insomma, non nessun soldo ai repubblichini. Ma per carità di Dio, ma guardi, non è passato mai dall'anticamera. Purtroppo la politica a volte assume toni e monta tempeste in un bicchiere d'acqua. Ma dai, non ce ne siamo accorti che la politica a volte usa dei toni un po' così. No, lo dico per gli ascoltatori che lo sanno bene anche. Va bene. Intanto, onorevole, la ringrazio. Allora, buone celebrazioni della festa del 2 giugno a questo punto. Buona festa del 2 giugno nella celebrazione anche dei 150 anni. Quindi certo. Quest'anno è una doppia festa. Tutti e viva l'Italia. Grazie all'onorevole Gregorio Fontana del Popolo della Libertà. Tra l'altro, di questo tema il 2 giugno si occuperà anche il nostro Oscar Giannino, il 9 in punto, appunto celebrazioni del 2 giugno e in particolare quest'anno che si inseriscono nel 150 dell'Unità d'Italia. E dunque, grazie, ci fermiamo a pubblicità e meteo e poi nel nostro sondaggio parliamo di scuola. 24 mattino. Eccoci qui alle 8:34 minuti. Allora parliamo di scuola nel nostro sondaggio. Una vicenda di cronaca che ci viene da Palermo, anzi in provincia di Palermo, l'abbiamo riassunta così: chiede i danni all'insegnante che rimprovera il figlio. Danni per circa 35.000 euro. Secondo voi è una richiesta legittima? Fa bene? Io sono o blanco o nero. Gris non voglio essere in mia vita. Bianco o nero? Non è neanche la prima volta di insegnanti che vengono querelate, insegnanti che finiscono anche a processo. Sui giornali era posta così nei giorni scorsi: una nota sul diario può costare 34.000 euro. Maestra rimprovera alunno, i familiari chiedono il risarcimento danni, 34.000 euro. Allora, intanto voglio salutare il nostro Alberto Pellai, medico psicoterapeuta dell'età evolutiva. Alberto, buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti. Ti facciamo lavorare anche il 2 giugno. Voglio salutare, qui abbiamo due avvocati, gli avvocati che sono, diciamo, le controparti in questa vicenda, che è una vicenda anche legale a questo punto, l'avvocato Giulio Drago, che saluto, buongiorno avvocato. Buongiorno a tutti. Lei rappresenta, diciamo, i genitori che hanno querelato di fatto, no? Chiedendo i danni. L'avvocato Fabrizio Bellavista, che saluto, buongiorno anche a lei avvocato. Buongiorno a lei, buona festa della Repubblica. Certo, e lei difende invece la maestra, insomma la persona, l'insegnante. Allora, voi siete i due avvocati, ma io non sono il giudice, questo non è un tribunale, quindi non stiamo facendo il processo. Ci sono anche versioni disparate di quello che è successo, però insomma, intanto, ecco, avvocato Drago, perché si arriva a chiedere 34-35 mila euro? Diciamo che in una battuta, se fosse così la rappresentazione dei fatti, saremmo tutti ricchi in Italia. Potremmo fare tutti diciamo i milioni di euro facendo le richieste, queste cause per così, per il rimprovero delle maestre. Chi di noi non è stato rimproverato dalla maestra durante la propria carriera scolastica? Il problema è che la vicenda, diciamo, di cui ci occupiamo non è minimamente quella che è stata rappresentata nei giornali. Che ha fatto questa maestra di così grande? Dunque, la vicenda la riassumo in pochissime battute. La mamma per prima si è accorta, e questo è un dato, diciamo, abbastanza singolare, per prima si è accorta della marachella del bambino di 8 anni, lo voglio ricordare, terza elementare. Si è accorta che il bambino aveva posto la firma nel diario a seguito di una nota della maestra. Aveva falsificato la firma della madre. Sì, diciamo. Vogliamo dire, sì, dai, così. Il bambino di 8 anni, non so fino a che punto abbia la coscienza. Sì, ma certo, ha firmato per la madre. La marachella, la mamma si è rivolta alla maestra e dicendo: guarda, il bambino ha fatto questo, concordiamo diciamo le modalità con cui dobbiamo interagire rispetto a questa marachella. Si è concordato che il bambino avrebbe subito una punizione, il calcetto non l'avrebbe più fatto per qualche periodo, e quindi la questione sembrava risolversi in maniera del tutto banale, la notizia non esisterebbe. A un certo punto, successivamente, dopo qualche giorno, è accaduto invece un fatto che è da notizia, e cioè le maestre, due maestre, durante l'orario scolastico e quindi davanti all'intera classe, hanno fatto alzare in piedi il bambino, sì, e gli hanno detto esattamente quello che lui ha riferito, io l'ho scritto, sì, sì, cioè? Che quanto da lui fatto era un fatto di reato, pertanto sarebbe stato espulso dalla scuola, sarebbe stato arrestato e condotto in un carcere di Medioria accompagnato dai carabinieri. 8 anni, questo, ma come? Esattamente, questo è il problema. Cioè il bambino di 8 anni redarguito ovviamente in maniera veemente dalle maestre, sì, davanti all'intera classe, effettivamente... Cioè, verrai arrestato e verrai portato in carcere dai carabinieri. Ha creduto di dover essere arrestato e di dover essere condotto in carcere, e quindi si è terrorizzato. Vabbè, questo è da qui insomma, questi sono i fatti. Adesso però, avvocato Bellavista, insomma, ci replay che invece difende la maestra, le maestre, non si capisce allora se sono una o due a questo punto. Replichi brevemente sui fatti, io poi vorrei certamente capire. Guardi, io apprezzo la sintesi del collega, anche se è un po' fantasiosa, nel senso che intanto non è solo un insegnante presente ai fatti, ma sono 3 insegnanti. Guarda caso solamente 2 denunziate, non tutte e 3, non si capisce il motivo per cui la terza sia stata esclusa, forse perché la si voleva allontanare dalla testimonianza che poi rilascerà. Sì. E non è affatto vero che gli abbiano detto quella frase o lo abbiano terrorizzato, ma hanno semplicemente detto che era un fatto sicuramente grave quello di falsificare la firma del padre, e che se fosse stato un soggetto adulto, cioè un adulto, un adulto che falsifica una firma, indubbiamente può essere sottoposto a un procedimento penale. Quindi come dire un ammonimento a dire non farlo per il futuro. È questo il principio dello ius corrigendi, dell'educazione che gli insegnanti devono dare. Terminavano proprio la reprimenda, insomma il rimprovero, dicendo non che erano arrabbiate con il ragazzino, ma erano più che altro deluse, tanto che la terza insegnante, quella che guarda caso non è stata denunziata, che è un insegnante di costituzione e cittadinanza, ha anticipato al bambino che avrebbe anche abbassato il voto nella sua materia, proprio anticipare il fatto che la sua condotta era una condotta... Vabbè, diciamo, queste sono le versioni. Poi, ripeto, ci sarà qualcuno che accerterà. Io però vorrei intanto Alberto Pellai che ci aiuti un attimo a capire il dato di fatto. Adesso versione 1 e versione 2, 2 avvocati, versioni contrastanti, come è normale, come è giusto che sia, se la vedranno, insomma. Il dato di fatto è che da una nota, da un rimprovero, forse eccessivo, cioè, si è arrivati, e non è la prima volta, Alberto, non è la prima volta, con insegnanti che vengono per i loro modi, magari abuso di mezzi di correzione, questo potrebbe essere anche a volte l'ipotesi di reato, vengono anche denunciati, finiscono anche a processo. Siamo a questo punto nel mondo della scuola, Alberto? Ma spero di no, credo e spero che questi casi continuino a rimanere davvero isolati, e penso proprio che in questo caso il problema più grande per il bambino sia vedere un mondo di adulti che, almeno per come ci è stata descritta, dovrebbe, come è successo all'inizio, trovare un'alleanza educativa, cioè trovare un modo condiviso per gestire un eventuale problema generato dal bambino. Ecco, vedere un mondo di adulti che improvvisamente entra in una battaglia con risvolti legali, penali, e che si fa la guerra, mi sento proprio di dire che quando un bambino combina qualcosa a casa sua, la cosa peggiore non è essere rimproverato, ma vedere mamma e papà che cominciano a litigare selvaggiamente fra di loro, di fronte al bambino, perché magari non hanno la stessa idea di come bisogna intervenire. Cioè, c'è proprio bisogno da una parte per i bambini di sentire di potersi affidare agli adulti, e quando un adulto fa un errore sentire che gli adulti ammettono eventualmente il proprio errore, e questa situazione io non l'avrei mai spostata su un piano legale, in un tribunale, ma eventualmente nella sala del dirigente. Mm. Tra l'altro, io voglio ricordare il bambino di 8 anni, voglio ricordare anche noi siamo in diretta, quindi 800 24 00 24, i nostri microfoni sono aperti anche per gli ascoltatori, che ne pensate? Insomma, questa è la doppia versione. Avvocato Drago, però ci aiuti a capire come da una situazione che vabbè è degenerata con le versioni contrapposte adesso che ci state raccontando, sia maturata l'idea di un risarcimento di credo 35.000 euro. Cioè, sulla base di che cosa? Cioè, cosa avrebbe subito questo bambino per chiedere questi danni? Allora, intanto io le leggo una lettera che ho spedito anche all'avvocato Bellavista. Con la presente le comunico inoltre che i miei assistiti, con la sottoscrizione della presente, si impegnano a devolvere in beneficenza qualunque somma venisse ottenuta a titolo di risarcimento danni a carico del responsabile. E questa è una scelta, non c'è nessun intento speculativo rispetto a questa. Vabbè, vicenda. Questa è una lettera che ho spedito ben prima che le notizie venissero fuori sulla stampa, e quindi è un fatto. Inoltre devo specificare che i genitori che prima originariamente si sono rivolti alla maestra per concordare la punizione, poi si sono rivolti al dirigente scolastico per capire se era possibile evitare l'allontanamento del bambino dalla scuola, visto invece il rigidimento dell'istituzione, della quale non solo non ha fatto nessuna marcia indietro rispetto all'errore che è grave commesso rispetto ai contorni che ho spiegato, invece ha irrigidito la propria posizione, e quindi sono stati costretti a cambiare scuola nel mese di febbraio. Cioè il bambino ha dovuto cambiare scuola. Ha dovuto prendere un istituto privato, perché difficilmente una scuola pubblica nel mese di febbraio accogliere i bambini, perché ci sono, diciamo, problemi di inserimento. Il bambino ha perso tutti i compagni di scuola che già da 3 anni frequentava, con tutte le relazioni chiaramente del caso. Insomma, ha subito un trauma. Avendo fatto di tutto i genitori per evitare che si raggiungesse questo scontro, tant'è vero che era stato proposto alla maestra di chiedere scusa al bambino dinanzi alla classe per rassicurarlo rispetto al fatto che lui la marachella l'aveva combinata, ma non doveva finire in carcere. Vabbè, ma qui rientriamo, avvocato Drago, rientriamo nelle versioni discordanti. Io vogliamo andare a sentire le informazioni sul traffico, poi ripartiamo anche dall'avvocato Bellavista, cioè cercare di capire comunque quella complicità tra insegnanti, genitori, quell'invito al dialogo che Alberto Pellai ci dice, insomma, sarebbe sempre la soluzione ideale, giusta, per ricomporre le cose, soprattutto quando c'è di mezzo poi un bambino di 8 anni che queste cose le può vivere davvero, comunque siano andate le vicende, le può vivere poi come un trauma, perché vede delle persone che mettono in campo degli avvocati, delle testimonianze, dovrà dare la sua versione, insomma, è un bambino di 8 anni, comunque, cioè, ha già perso in questa situazione, e allora, insomma, da questo voglio ripartire, a cercare di capire se davvero si è arrivati, anche se sono casi magari isolati, a questo punto. Insomma, siamo un paese talmente litigioso. A tra poco. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Allora, detto che qualcuno ci scrive via sms al 349-238-6666, coi miei 3 figli sarei diventato milionario. Ma buttiamola anche un pochino a sorridere, insomma, discutiamo di come una nota poi sia degenerata in una causa in una scuola, con tanto di richiesta danni da parte dei genitori dell'allievo di 8 anni, sgridato in maniera molto dura, dice il nostro avvocato, dalle maestre. Voglio sentire Stefano da Udine, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Io mi ritrovo nella vicenda perché io avevo 8 anni e ho falsificato la firma di mia mamma o di mio papà sul diario. A 8 anni? Allora, mi hanno beccato, ovviamente i miei, siamo andati dalla maestra, io non mi ricordo la punizione, può essere stato non vedere la televisione o qualcosa del genere per un po', ma di fatto ho notato questa grossa differenza. Una volta io facevo una cosa del genere e le prendevo da mia madre o da mio padre, perché le ho prese, e tante anche. Oggi invece si fa causa, quindi quello che io vorrei dire, secondo non me... Non sempre si fa causa, in questa situazione. Tendenzialmente oggi si tende a fare causa, allora. E quindi vuol dire che secondo me è un problema non dei bambini che a 8 anni fanno queste cose, perché se l'ho fatta io 30 anni fa vuol dire che si fanno queste stupidaggini, ma è un livellamento verso il basso di quello che è la coscienza etica. tutto qua. Bene, grazie Stefano. Grazie. Avvocato Bellavista, che ricordo sempre difende le maestre. Tra l'altro lei difende, credo, anche una dirigente scolastica in un'altra situazione, che è sotto processo per abuso di mezzi correzionali. Insomma, sì, quello è un episodio differente. Io però vorrei fare delle precisazioni su quello che ha detto il collega Drago. Sì. Intanto la prima, quella in merito al risarcimento del danno, la decisione dei genitori di devolvere in beneficenza è seguita non alla pubblicazione della notizia, questo è vero, ma è seguita una lettera di risposta da parte dei legali, degli insegnanti, che contestavano e si incuriosivano sull'ammontare del risarcimento del danno. Vabbè. Per quanto riguarda invece quello che veniva suggerito, cioè l'intervento del dirigente scolastico, c'è stato un tentativo del dirigente scolastico che ha fatto un'indagine nei confronti delle insegnanti, ma l'esito intanto è stato quello di evidenziare come hanno agito come vuole la deontologia professionale, e quindi non è stato avviato alcun procedimento disciplinare, ma soprattutto il dirigente scolastico ha affermato in una relazione all'ufficio scolastico provinciale che le affermazioni riportate nella nota dei genitori sono prive di fondamento. Vabbè, ma queste insomma sono ma mi dica come il dirigente scolastico ci ha tentato di intervenire. Mi dica come l'umore di cioè quando si sono viste la richiesta di per aver fatto dal loro punto di vista il loro lavoro, qual è l'umore di questi insegnanti? Vede l'insegnante, indubbiamente l'umore dell'insegnante è quello dello sconforto. Si chiede molto spesso intransigenza da parte dei genitori, degli insegnanti, perché molto spesso di intransigenza nelle case non ve n'è più. Però quando l'insegnante accerta degli errori, delle condotte sbagliate e cerca di provvedere secondo quelle che sono le forme normali di educazione, io ricordo scherzando una volta tornato a casa dissi a mio padre che l'insegnante mi aveva rimproverato ingiustamente per un fatto che non avevo commesso. Mio padre, anziché andare a parlare con l'insegnante, mi disse: ti valga per quelle volte che sei stato tu e non ti hanno beccato. Vabbè, insomma, altri tempi, come diceva il nostro ascoltatore. Sentiamo anche Laura da Pisa, che ci ha chiamato all'800240024. Laura, buongiorno. Buongiorno. Dica Laura. Dunque, io volevo intervenire, diciamo, sono dalla parte degli insegnanti, a parte che sono un insegnante in pensione. Però mi dicevo questo: io avrei paura nei genitori di un bambino che si fa queste, diciamo, firme false, perché io ho avuto un figlio che si è fatto le firme false al liceo. Però il problema è che il genitore deve prendere una posizione legale. Dunque, il bambino ha mancato alla legge, per cui le insegnanti che lo riprendono non hanno nessuna colpa, anzi. Però dice l'avvocato che sono andati a concordare, a dire è giusto, ha fatto, cioè hanno preso atto di una marachella e quindi è giusto punirlo. Da lì poi la situazione è degenerata. Però lei dice sono i genitori, soprattutto Alberto Pellai, è una posizione giusta anche quella di Laura e anche quella del nostro ascoltatore prima, che diceva manca, è cambiata un po' l'etica addirittura, per cui 30 anni fa o 20 anni fa queste cose non succedevano. Certamente non c'è più l'alleanza scuola-famiglia, per cui un genitore riconosceva all'insegnante di suo figlio il diritto di agire nel bene del bambino e si alleava con lui di fronte a una trasgressione. È anche vero che questo ha dato certamente dei vantaggi, cioè un tempo era possibile usare una punizione corporale a scuola, ora non lo è più e credo che sia un diritto del bambino non essere punito corporalmente. Detto questo, osservando questa vicenda con gli occhi del bambino, io devo dire che la persona più danneggiata è veramente lui, cioè sono esterrefatto del fatto che abbia dovuto cambiare scuola, compagni e tutto il resto. Secondo me queste sono proprio quelle mosse che a volte i genitori fanno nell'impeto del conflitto su, direi, proprio un accesso, per dire, no, perché infatti questo, Alberto, un trauma c'è già, voglio dire, un bambino che indipendentemente non ci interessa il perché e per come, ma è arrivato appunto a cambiare scuola, a cambiare tutti, è vero, i legami, le amicizie, gli affetti, i compagni di scuola, è un trauma già, questo dicevo, ha già perso in tutta questa vicenda. E io credo che l'altra cosa abbia davvero visto succedere da una sua microazione sbagliata una serie di eventi che si sono allargati a macchia d'olio, che lo avranno certamente lasciato confuso. L'ultimo aspetto proprio sempre nella mente del bambino, cioè verificare che un intervento educativo, che probabilmente non ha avuto le caratteristiche adeguate, venga in qualche modo connotato dalla richiesta di un risarcimento economico, cioè la produzione di denaro per un errore educativo, secondo me, sempre nella logica del bambino, è davvero una cosa che lo confonde, cioè mi domando per quale motivo davvero non si siano messi gli adulti magari con calma, con tranquillità intorno a un tavolo, magari portando la lettera scritta dal bambino che dice semplicemente quel giorno sono tornato a casa da scuola e credetemi, magari io ero davvero molto disorientato, oppure mi sono sentito molto triste e molto spaventato, cioè raccontare con tranquillità, con molta semplicità le emozioni provate dal bambino, affinché un'emozione così forte abbia come risposta un abbraccio e non una serie di pugni metaforici tra gli adulti che ne sono coinvolti. Sentiamo anche Giulio da Roma che ci ha chiamato. Buongiorno Giulio. Buongiorno, buongiorno a tutti. Dica. Io sono dalla parte del bambino. Quando avevo 8 anni rubai nel resettorio un coltello che mi serviva per pulire i bastoni. Ma che siamo una banda di criminali in Italia? 8 anni ci sono fatte delle cose. I ragazzini non conoscono la giustizia penale e quindi sono disorientati, hanno paura della polizia, le prigioni. Mi portarono dalla preside e siccome c'era lì il padre di una compagna che era poliziotto, la preside mi fece sgridare dal poliziotto, il quale mi mise anche le manette. Dice: guarda, se tu fai una cosa già da grande ti mettono le manette. Io tornai a casa terrorizzato. Come? E ancora oggi io sono terrorizzato dalla polizia. Appena vede un paio di manette, lei si immagina di lei a 8 anni. Mi fa ancora paura. Perché i bambini la giustizia penale non la conoscono e non la devono conoscere. Conoscono la giustizia degli adulti, che è il bene e il male. Va bene, Giulio, ancora terrorizzato alla vista di un poliziotto perché a 6 anni le misero le manette per dire: guarda che se lo fai da grande succederà questo. Allora io mi devo fermare, vi ringrazio l'avvocato Fabrizio Bellavista che come detto difende le maestre e l'avvocato Giulio Drago che invece difende i genitori che hanno chiesto questi danni, il nostro Alberto Pellai. Ripeto, staremo a vedere, la vicenda sarà una vicenda, spero che si ricomponga, anche se certo dei traumi ormai sono avvenuti al bambino. Vi ringrazio per essere stati con noi, con Franco Piantanida oggi da ringraziare insieme ad Elisabetta Fusconi in redazione e il nostro Paolo Corleoni in regia, che come detto non ha passato, è stato bocciato al nostro esame le domande che gli abbiamo fatto di quinta elementare, su 4 ha risposto a una, ma perché è stato un mezzo miracolo. Allora do la linea a Oscar Giannino e noi ci troviamo domattina alle 7:20. ricordate che potete scriverci 24 mattino e radio24.it e andate sulla nostra pagina di Facebook, è quella 24 mattino. A domani.